Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata. La situazione di incertezza e ingovernabilità consegnata all'Italia dal risultato elettorale del quale abbiamo parlato diffusamente anche ieri nello speciale elettorale a quest'ora con Simone Spezia, non poteva appunto non far sentire il suo peso sui mercati finanziari, e ieri abbiamo raccontato in lungo e in largo quella che è stata la reazione della borsa e anche del mercato obbligazionario rispetto appunto alla nuova compagine politica che ha disegnato il nostro paese. Ieri Piazza Affari ha vissuto una giornata terribile, ha iniziato a precipitare fin dai primi scambi e di contro anche lo spread, il differenziale fra Italia e Germania sul titolo decennale, ha ripreso a crescere in maniera anche molto vistosa. Fra le conseguenze di queste situazioni c'è stata intanto la bufera sui titoli bancari, come era prevedibile, con i bilanci degli istituti di credito pieni di miliardi di euro di titoli di debito italiani. Stamattina le azioni hanno provato a recuperare un po', ma il mercato dei titoli di Stato è ancora piuttosto teso e nervoso. In avvio di seduta lo spread era di nuovo verso i 350 punti base. Adesso la situazione in borsa qual è? C'è Parigi che sta guadagnando lo 0,4%, Francoforte non si muove dalla parità, Londra più 0,08% e anche Milano, che ieri ha perso sul finale quasi il 5%, oggi segna un rimbalzo di appena lo 0,20%. Titoli di Stato, dicevamo, ieri l'asta di botta a 6 mesi. Ha visto un balzo dei tassi di interesse allo 0,73%, dal 0,73% della precedente emissione appunto di un mese fa all'1,23% di ieri. E poi questa mattina l'asta attesissima di BTP a 5 e 10 anni. E come indicavamo nel giornale radio, tassi naturalmente in crescita per il nuovo BTP decennale. Il Tesoro ha venduto tutti i 4 miliardi previsti. Il tasso appunto in questo caso, dicevamo, è salito al 4,83% dal 4,17 di gennaio, siamo di nuovo sui massimi da ottobre. Per quello che riguarda il titolo a 5 anni, il Tesoro ha collocato con successo i 2 miliardi e mezzo previsti, ma naturalmente il mercato è stato anche in questo caso più rigido nella richiesta di remunerazione e il tasso è salito al 3,59% dal 2,94 di gennaio. Anche per questo titolo ci siamo riportati ai massimi da ottobre. E allora anche oggi ritorniamo ad osservare, a commentare l'andamento dei mercati in seguito alle elezioni, confrontandoci con gli ascoltatori e con i nostri esperti sui possibili scenari che si possono disegnare a questo punto, e soprattutto parleremo chiaramente anche delle ripercussioni per i risparmiatori, perché magari chissà in quanti avranno fatto questa riflessione in queste ore: sono stato un elettore, ho fatto determinate scelte, ma oggi chissà se alla luce anche di quello che è successo e di come si è movimentato il mio portafoglio investito, ho fatto la scelta giusta, contribuendo anche a questa nuova appunto formazione politica che nelle prossime settimane siederà sui banchi del Parlamento italiano. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Scriveteci se volete anche al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Siamo anche su Facebook, su Twitter, ci potete trovare tranquillamente. Buongiorno e bentrovato Fabrizio Fiorini, direttore investimenti diretti di Aletti GSL SGR, buongiorno. Buongiorno a voi. Da qualche giorno stiamo sentendo anche soprattutto gli operatori internazionali, i rappresentanti italiani delle case di investimento internazionali, per capire che aria tira anche da altre parti d'Europa, almeno qual è la percezione nuova che si ha nei confronti del nostro paese. Buongiorno a Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia, responsabile dunque per le attività italiane di JP Morgan Asset Management. Alfieri, buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno a Matteo Bosco, Country Head per l'Italia di Aberdeen Asset Management, questa è una casa di investimento scozzese. Bosco, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno. Più tardi ci collegheremo con Stefano Rossi, amministratore delegato di Edmond & Rothschild SGR. Allora, io ho fatto la lista della spesa di tutti i nostri ospiti di questa mattina. Quello che è successo questa mattina in borsa ve l'ho già raccontato, c'è ancora poca voglia di far rimbalzare Piazza Affari. Gli operatori probabilmente in questo momento stanno anche un po' valutando le indicazioni espresse nelle ultime ore dalle attesissime agenzie di rating. Ieri Standard & Poor's ha detto: il risultato delle elezioni non ha immediato impatto sul rating dell'Italia. Fabrizio Fiorini, quindi è una che ne so, nuova riduzione delle giudizi sul debito italiano solamente rimandata, quando, come dire, anche le agenzie vedranno se ci saranno degli accordi seri per la costituzione di un nuovo governo, forse prenderanno e faranno delle valutazioni più avanti? Sì, intanto è una buona notizia perché le agenzie di rating di solito sono molto veloci a dare notizie negative e molto lente a dare quelle positive. Ci si aspettava un loro giudizio, è arrivato, e non essendo arrivato negativo, anche il solo fatto di rimandare, io penso che in questo momento in cui il mercato ha bisogno di molta calma sia un primo aspetto positivo, perché avrebbe potuto ingenerare una serie di vendite su titoli italiani legate appunto al declassamento. Il non declassamento e rimandare quantomeno ai programmi apre una interessante prospettiva, quantomeno. È stata un po' più sinistra Moody's, che invece ha detto dopo le elezioni italiane, appunto, il cui esito è stato così incerto, c'è il rischio di un riaccendersi della crisi della zona euro, perché qua lo spettro del domino è stato di nuovo paventato ieri, Fiorini. Sì, qui diciamo la sagra dell'ovvietà. Moody's dice ciò che tutti sanno e ciò che è entrato chiaramente nei prezzi nella sola giornata di ieri, no? Con lo spread e con l'andamento dei titoli azionari italiani. Quindi nulla di nuovo. Se questo significa prendere atto di una situazione ma senza agire, anche in questo caso direi bene così. Lorenzo Alfieri, vengo subito a lei, perché ieri ho trovato qualche notizia che riguarda JP Morgan. Questo colosso degli investimenti mondiale, appunto, ha organizzato a New York proprio nelle ultime ore l'Investor Day, l'incontro con gli investitori, appunto, a livello credo mondiale. Ho individuato appunto questo dato che vi riguarda. JP Morgan ha un'esposizione netta all'Italia di 7 miliardi e mezzo di dollari. Avete intenzione di cambiare la vostra posizione dopo il risultato elettorale? Ma diciamo che ovviamente questa è la posizione che la banca come tale ha verso l'Italia, ma comunque è una posizione che c'è da tempo. Significa semplicemente che comunque l'attività sull'Italia, sul paese, non è stata mai messa in dubbio, rimane sicuramente una delle nazioni più interessanti, più importanti per noi sullo scenario europeo, e quindi anche se ovviamente in questo momento si stanno vivendo delle fasi di alterna volatilità, noi ovviamente guardiamo sempre con notevole interesse all'Italia, quindi non sta cambiando assolutamente il nostro giudizio. C'era da aspettarsi una reazione così dirompente dai mercati ieri dopo le elezioni italiane, Alfieri, qual è il suo giudizio? Devo dire che noi già da qualche settimana come investitori, quindi come JP Morgan Asset Management, avevamo ovviamente valutato uno scenario attendista per quanto riguarda esattamente, specificatamente l'Italia, non l'Europa. Pensavamo appunto un aumento della volatilità, ma per il momento devo dire francamente non abbiamo assolutamente cambiato la nostra visione né sul paese né tantomeno sull'Europa. C'è un ascoltatore che dice che è bello fare pubblicità e dare importanza ai suoi ospiti che guadagnano sulle nostre spalle. Date spazio all'impresa, non alla finanza, del nulla. Io volevo dire a questo ascoltatore, che sa bene ascoltando le nostre trasmissioni, che ci sono anche dei contenitori che danno molto spazio all'impresa. Se ne occupa diffusamente anche Sebastiano Barisoni con Focus Economia, però ci sembra anche giusto così monitorare con una certa attenzione quello che accade sui mercati, anche se certe forze politiche ritengono che non sia assolutamente rilevante monitorare l'andamento dei mercati. A noi sembra invece che un certo rilievo ce l'abbia. Matteo Bosco, Aberdeen Asset Management, dalla Scozia, come sono stati accolti i risultati elettorali italiani? Lei sa che gli scozzesi sono scettici per definizione, quindi credo che ci fosse un po' un'aspettativa che purtroppo l'Italia non cambia, e questo è un pochettino il refrain che sento all'interno del mio gruppo. Gli italiani sono sempre italiani, quindi ci si aspettava in una qualche maniera, forse non così differente rispetto alle anticipazioni che sono, diciamo, che abbiamo letto un po' dappertutto. Credo che non è che questo cambi fondamentalmente la nostra visione, cioè mi spiego, pre-elezioni ho avuto varie interviste e continuava a dire: non vedo una forza politica dominante che si sta definendo, che va alle votazioni e che sembra essere un leader che può continuare il lavoro, il bel lavoro intrapreso, poi diciamo che è costato tanto a tanti italiani, però era un bel lavoro che ci riportava in una bella, su una bella strada iniziata da Monti, non lo vediamo, quindi vedevamo già in una qualche maniera questa debole cosa che si è poi delineata ieri in borsa e che non penso andrà a migliorare fin tanto che non ci saranno chiarimenti da parte diciamo del capo dello Stato su che cosa saranno i prossimi passi. Marzo sarà davvero il mese delle consultazioni a livello globale, perché tra conclave e gli impegni del Presidente della Repubblica, ascoltare le nuove forze politiche, appunto, ci saranno davvero molte cose interessanti da raccontare. Fabrizio Fiorini, ieri ho fatto anche un'altra osservazione con la quale si sono trovati anche abbastanza d'accordo alcuni dei suoi colleghi che ho interpellato appunto nel corso del nostro speciale. Sicuramente la borsa viaggia sui massimi da qualche anno a questa parte, ha recuperato molto. Parlo di Francoforte come di altre piazze europee, addirittura il Giappone. Non è che ieri qualche operatore dice: ma sai che c'è tanto, è abbastanza chiaro il disegno politico che emergerà dalle elezioni italiane, troviamoci tutti pronti a scatenare una battaglia in borsa e portiamo a casa con questa scusa un po' di soldini incassati di recente. È possibile anche che ci sia stato da parte di qualcuno questo ragionamento ieri, che in realtà non si sia preoccupato poi più di tanto del risultato elettorale? Il risultato elettorale sicuramente è stato una buona scusa per molti, però è chiaro che per essere una scusa, per prendere profitto, occorre partire da un presupposto, cioè essere negativi di fondo, avere comprato alcuni mesi fa, avere guadagnato, avere paura e quindi uscire, perché altrimenti se uno facesse un ragionamento sulla base delle valutazioni o delle prospettive, chiaramente puoi provare a vendere ieri, ma probabilmente devi già iniziare a ricomprare oggi. Io penso che ci sia di fondo una forte negatività, e la vediamo anche dalle risposte degli investitori internazionali che vengono in Italia ad investire. C'è una forte negatività ormai consolidata sul progetto europeo, sull'Italia come punto debole del progetto europeo, e quindi anche i cambiamenti, quando positivi, vengono poco riconosciuti, quelli negativi vengono estremamente, diciamo, sottolineati. Ecco, e quindi troviamo che questi sono i risultati, che per guadagnare qualcosa l'Italia deve faticare sette camicie, e per perdere tutto quello che ha fatto basta anche poca cosa, perché questo progetto, diciamo, politico non è sicuramente eccezionale dal punto di vista dell'investitore internazionale, ma non è in grado di cancellare tutto ciò che di buono è stato fatto. I conti pubblici sono in ordine, le economie mondiali sono molto più forti, la banca centrale comunque è ben presente, la situazione è estremamente migliorata, poi chiaramente questo progetto politico può rallentare il miglioramento, ma non ne può cambiare la direzione, o almeno non abbiamo i presupposti. Quindi la reazione di ieri invece sembra quasi dire: qui cambia tutto, quello che è successo riduce la velocità di raggiungimento dell'obiettivo. E purtroppo però gli investitori internazionali hanno questo mood negativo, e anche se continuano a essere presenti, comunque occorre sottolineare che sono sottopeso Italia. Tutti gli investitori, qui al tavolo abbiamo investitori internazionali, e loro possono testimoniare che comunque il loro input, anche di recente, di alcune di queste case che sono presenti, è stato quello di ridurre Italia, già da sottopeso, ridurre ulteriormente, accampando la scusa delle elezioni e non guardando tutto ciò che c'è dietro, il miglioramento strutturale che esiste in Italia. E quando si dice in Italia non si cambia, in realtà si cambia a volte troppo forte, perché noi abbiamo il 30% di grillo, quindi questo forse è un cambiamento troppo forte, e abbiamo anche un 30% che non vuole cambiare, quindi è una polarizzazione della volontà di cambiamento e non è una non volontà, occorre sottolineare questo aspetto. Alfieri, Fiorini l'ha chiamata in causa, sentito? O ce la sto tirando io per la giacchetta? Sì, no, non riguarda noi assolutamente, l'ho già detto prima. Come banca in generale siamo più che mai presenti in Italia, non abbiamo cambiato assolutamente la nostra attitudine ad investire in questo paese. In secondo luogo, come già citavo prima, il nostro posizionamento sui mercati europei azionari è rimasto assolutamente identico, perché appunto fermo restando il fatto che avevamo avvertito della possibilità di una certa volatilità Noi siamo sovrappesati in Europa e chiaramente è ovvio che in questa fase di mercato di volatilità stiamo attendendo ovviamente di capire lo scenario italiano, ma per eventualmente migliorare la posizione. Peraltro il mercato italiano e il mercato spagnolo come azionari erano di gran lunga i mercati che avevano le migliori valutazioni, quindi erano e rimangono evidentemente un'area di investimento interessante. È chiaro, bisogna avere un quadro e uno scenario più chiaro, più trasparente. Non è possibile fare valutazione in questo primissimo momento, ma rimane comunque di base un elemento sicuramente in dubbio. Si sono fatti molti passi avanti rispetto agli scenari del 2011 e della prima parte del 2012 a livello europeo, e quindi evidentemente anche per gli investitori internazionali il quadro complessivo è nettamente migliorato. Ma lei ieri ha vissuto una giornata come tutte le altre, immagino da cittadino italiano, o comunque da New York le hanno fatto più di una telefonata, la casa madre appunto americana le stava chiedendo un po' qualche spiegazione rispetto a quello che politicamente stava accadendo a Roma? No, il discorso è che comunque non ci dimentichiamo che veniamo da una fase, per quanto riguarda i mercati azionari, di forte rialzo, quindi questa oscillazione di ieri va comunque considerata un'importante correzione, ma non una correzione definitiva, tant'è vero che oggi i listini sono sostanzialmente fermi. Non ci dimentichiamo che chiaramente lo scenario di un anno e mezzo fa, due anni fa, nello stesso, se si fossero verificate situazioni analoghe, sarebbe stato ben diverso, quindi io cerco sempre di ricordare che comunque sì, c'è una volatilità leggermente aumentata, ma non è uno scenario assolutamente estremamente negativo. Siamo ancora in una fase in cui secondo noi i mercati stanno cercando di capire, siamo ben lontani ovviamente dalla volatilità e dalle correzioni che avevamo vissuto fino a qualche tempo fa. Allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo la nostra prima pausa. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Come sentite, allora c'è chi considera appunto questa fase ancora, come dire, piuttosto tranquilla. Ieri reazione rapida al risultato elettorale, oggi invece giornata di consolidamento sui mercati, comunque diciamo non c'è neanche un grande recupero, probabilmente vedremo anche questo andamento ancora per qualche tempo. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Questa mattina siamo di nuovo ritornati a monitorare l'andamento dei mercati finanziari. Ah, peraltro, questa mattina il Sole 24 Ore è uscito con uno speciale dedicato alla Tobin Tax, dove era segnalato anche che Salva Danaio si sarebbe occupato di questo argomento. Abbiamo deciso di rinviare la puntata a domani, per cui non è un'informazione errata. Abbiamo ieri preso questa decisione, ma lo speciale era già pronto, per cui ve lo anticipo già fin da oggi. Ci occuperemo appunto domani di questa nuova tassa sulle attività di compravendita sui mercati finanziari. Oggi invece il Sole 24 Ore pubblica, alla luce della terribile giornata di borsa di ieri, le 10 mosse del risparmiatore dopo l'esito elettorale, come affrontare il momento di forte pressione su spread e listini per tenere al sicuro o far fruttare al meglio il denaro. Ed è un tema che un po' stiamo cercando di toccare anche noi questa mattina. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi. Intanto ci ha raggiunto telefonicamente Stefano Rossi, amministratore delegato di Edmond & Rothschild SGR, che è per la verità dall'altra parte del pianeta in questo momento, ma ha accettato lo stesso il nostro invito. Rossi, buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Sì, dov'è tutto che bene. Lei ha... No, non sono dall'altra parte del pianeta. Sì, è vero. In Abu Dhabi, che è uno stato esatto, piccolo, ma è molto più vicino a noi, forse per abitudini, diciamo, stili di vita, è molto lontano da noi. Non le chiedo che cosa fa là, le chiedo però come l'hanno raggiunta i risultati elettorali italiani. Abbiamo letto, poi in realtà sono partito ieri sera, quindi ho potuto quindi era già andato via con il carico di preoccupazione. Era andato via con un carico di preoccupazione. I primi incontri che ho fatto qua, le prime domande ovviamente vertevano su questo argomento. E le risposte su che cosa vertevano? Vabbè, sono anche abbastanza abituato a questo, perché nel senso che io per tanti anni ho fatto il broker, e quindi andando a vendere l'Italia in qualche modo, quindi a cercare di raccontare storie di aziende italiane, purtroppo la prima domanda e sempre il cancello di sbarramento iniziale era sempre sulla politica, prima veniva la domanda sulla politica, ci possiamo fidare del vostro paese, dopo veniva la domanda, ma questa azienda è veramente buona, bisogna comprarne le azioni oppure no. E quindi purtroppo noi viviamo questo stato perenne di essere sotto la lente di ingrandimento, essere un po' sotto attenta osservazione. Chiaramente il risultato elettorale in questo momento non aiuta, però devo dire che ho trovato degli investitori che sono abbastanza maturi e quindi piuttosto preparati ad affrontare anche volatilità di questo tipo, perché chiaramente pensano e continuano a ritenere che sotto ci sia una rete di protezione estesa dalla BCE. Ah beh, insomma, però il presupposto dell'investimento non è che sia tanto rassicurante, non è perché si crede nel paese, ma perché tanto comunque, anche se la volatilità tornasse ad accentuarsi come già successo nei mesi passati, c'è la BCE che ci protegge, però non è una grande cosa quella che ci ha raccontato Rossi, no? No, non sono, infatti non è che sia felice di ciò, però diciamo che gli investitori in generale, quelli che guardano i mercati, sono personaggi molto pragmatici e quindi dicono possiamo fare a meno dell'Italia? Sì, in questo momento ce l'abbiamo in portafoglio? Magari sì, la vendiamo o non la vendiamo? Magari la venderanno, però in questo momento pensano di continuare a mantenere anche per vedere come si sviluppa la situazione nei prossimi, direi, spero, brevi settimane, però ahimè purtroppo mi sembra che anche leggendo le rassegne stampa che gentilmente mi sono state inviate qua oggi non si vede una grande chiarezza all'orizzonte a breve, quindi ho paura che questa volatilità durerà parecchio. Beh, intanto c'è bisogno di un tempo tecnico per formare il nuovo governo e poi soprattutto noi auspichiamo un'assunzione di responsabilità da parte di tutti coloro che saranno coinvolti in queste operazioni. Matteo Bosco, ha sentito quello che diceva Stefano Rossi? Il mercato è comunque al momento ancora tranquillo sull'Italia, perché tanto anche nello scenario peggiore si aprirà il paracadute della Banca Centrale Europea, della quale non parlavamo da un po', ma a quanto pare bisogna anche, come dire, riesumare, no, le possibili intenzioni e operazioni di Mario Draghi, qualora ce ne fosse bisogno. Non vorrei che fosse proprio l'Italia la prima a dover chiamare, appunto, e bussare a Francoforte. Ma dunque, sentito dalle parole dirette di Draghi, è un conditional, ci sono delle condizioni a richiesta dell'OMT, per cui c'è bisogno di un forte governo, perché le condizioni imposte da questo programma non sono delle condizioni che possono diciamo commutarsi o lavorare bene con alcune tendenze populiste che abbiamo sentito. Io poi non conosco bene il programma, per cui non posso nemmeno stare lì a commentare più di quel tanto, però è evidente che la precondizio per andare avanti con la richiesta dell'OMT è avere di aver già una descrizione di un percorso da fare, quindi l'agenda di chiunque volesse farlo dovrebbe essere coincidere con quella che poi ci porta o ci riporta all'interno di una credibilità, di una storia di credibilità europea, perché questo, ricordo, sono pienamente d'accordo con Alfieri, è una cosa che riguarda tutta l'Europa. L'Italia ha alcuni conti in ordine, non tutti sono in ordine, bisogna chiaramente a riallinearsi, ma una cosa fondamentale che ci manca in Europa e che sta creando queste sacche di, chiamiamolo così, di voto alternativo, è la mancanza di crescita e quindi di posti di lavoro. Ecco lì, diciamo, l'assunzione di responsabilità auspicata da Rossi e da lei prima sono fondamentali, perché dobbiamo fare tutta una serie di cose importanti che poi dopo ci daranno l'opportunità di chiedere eventuali miglioramenti delle nostre condizioni, e questo tendenzialmente dovrebbe far riportare giù gli spread e a questo punto poter dare anche linfa alle società, alle piccole società che stanno soffrendo in maniera importante, perché le banche non riescono poi a dare questo credito. Cioè, tra l'altro, stavo anche ieri facendo quest'altra considerazione, appunto monitorando quello che è accaduto ieri sui mercati. Con la divaricazione dello spread prepotentissima di ieri, è chiaro che scendono in maniera dirompente tutti i titoli del settore bancario. Ieri però il mercato non ha fatto nessunissima distinzione, sono scesi un po' chi più che meno tutti i titoli, e stavo pensando però a che cosa dovrebbe interessare agli investitori del fatto che in Italia sta emergendo una determinata condizione politica. Luxottica continuerà ad investire sui mercati internazionali, ad aprire centinaia di negozi in Cina. Esiste anche un rischio paese su società che hanno, Fabrizio Fiorini, una grandissima vocazione internazionale, che dovrebbero essere sempre ben presenti in un portafoglio diversificato, almeno queste sono le vostre ricette consolidate. Sì, diciamo che questa è stata un po' una soluzione che molti hanno cercato di adottare, no? Andare a cercare aziende che hanno il loro fatturato altrove. Purtroppo però le interconnessioni col tessuto locale sono fortissime. Luxottica comunque ha forti finanziamenti soprattutto dal sistema bancario italiano, e se il sistema bancario italiano non ha la liquidità per finanziare Luxottica, Luxottica è in difficoltà. Luxottica è in difficoltà perché comunque vende, ma non è che vende solo fuori dall'Europa, vende anche in Europa, dove il problema italiano potrebbe riverberarsi con una certa forza. Quindi non è la soluzione di tutti i mali quella di scegliere quelle poche aziende nel paese in difficoltà che esportano in paesi non in difficoltà, perché questa difficoltà rischia di essere comune, e soprattutto è il canale di trasmissione bancario che lega tutti quanti, dall'impresa al piccolo risparmiatore che ha due soldi che guarda caso sono in BTP. Quindi l'interconnessione è tale per cui non possiamo ignorare il tessuto finanziario. Noi abbiamo tra l'altro, a proposito di BTP, commentato l'asta di questa mattina, lo faremo tra qualche istante. Vorrei sentire un ascoltatore, che è Danilo da Cuneo, per poi far dare qualche indicazione al nostro ascoltatore e da tutti i nostri ospiti di stamattina. Danilo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Innanzitutto vorrei complimentarmi per il suo modo di condurre la trasmissione, l'ascolto sempre volentieri. Grazie, non parlo troppo velocemente, ogni tanto mi mangio le parole. Cerco di stare attenta, però sa che molti suoi colleghi mi bastonano sempre. Ci dica. Poi ecco, io sono un po' come investitore, assomiglio un po' alla nonnina che ha quattro soldini da parte. Guardi, tanti italiani sono così, sa, per fortuna. E che però, quindi non vorrebbe assolutamente rischiare il capitale, ma che però vorrebbe anche un pelino di remunerazione. Uh-huh. E quindi la mia domanda sarebbe la seguente: ora come ora, con questa situazione, quindi di tassi bassi che sembra, per questioni politiche nostre interne, andranno ad alzarsi, dov'è che potrei collocare i miei risparmi per tenerli al sicuro e avere comunque un po' di remunerazione? La ringrazio, Danilo. Allora sentiamo un po' intanto Lorenzo Alfieri, JP Morgan. Danilo ha un profilo molto attento sicuramente di risparmiatore, però come gran parte degli italiani anche un profilo prudente, giustamente, che prima di tutto vuole conservare il suo capitale e poi magari, che ne so, metterci qualche cosina, perché poi l'inflazione c'è, il nostro portafoglio viene eroso appunto dai prezzi che, anche se modestamente, crescono nel medio termine. E allora quali sono, per affrontare anche con serenità questa fase di mercato, i suggerimenti che si possono dare? Ma diciamo che noi ovviamente ci dimentichiamo di una fase molto particolare del mercato obbligazionario, che ahimè in Italia ovviamente è sempre stato al centro dell'attenzione e dell'interesse, cioè quello che abbiamo sui mercati obbligazionari governativi, dei rendimenti storicamente molto molto bassi. Quindi generalmente entrare in questo momento su un mercato di questo genere, dove i rendimenti sono molto bassi e dove basta un minimo di preoccupazione sull'inflazione per fare ovviamente scendere violentemente i prezzi dei titoli obbligazionari, ecco, tutto questo si risolve nella nostra forte cautela, e l'invito quindi agli investitori di stare molto attenti ad entrare in questo momento sui mercati obbligazionari governativi. Ci sono tante altre soluzioni di investimento, ovviamente guardo sempre gli investimenti, quelli per così dire meno rischiosi, ad esempio obbligazioni corporate, cioè quelli emessi dalle aziende sui mercati internazionali, anche guardando magari a uno spettro un po' più tra virgolette aggressivo, come sono quelli a yield, o anche per esempio emittenti sovranazionali dei paesi cosiddetti emergenti, che ormai non lo sono più. Quindi riassumendo, è possibile andare sul mercato obbligazionario, ma bisogna saper ovviamente fare un'attenta selezione e soprattutto una forte diversificazione. Ma l'obbligazione corporate, quella che indica lei, l'obbligazione societaria, è un'obbligazione, è un tipo di investimento adatto ad un profilo prudente come quello di Danilo? Perché so che ci sono dei tagli di investimento anche piuttosto alti, forse Danilo non è esattamente il profilo idoneo. Per questo motivo stavo dicendo si deve ricorrere generalmente a degli strumenti come ad esempio i fondi, che delegano evidentemente a un gestore la capacità e la possibilità di entrare ed uscire sui titoli obbligazionari delle varie aziende su tutti i mercati internazionali. Diciamo che l'investitore ha adesso degli strumenti molto interessanti, quelli di investire su mercati obbligazionari attraverso dei fondi che sono ovviamente molto molto diversificati e in una fase come quella attuale è molto significativo, perché ovviamente se fosse l'investitore solo unicamente legato al mercato italiano, anche quello obbligazionario, ovviamente incorrerebbe in rischi di volatilità molto alta. Mm-hmm. E allora, insomma, la diversificazione è la ricetta che sempre suggeriamo. Il problema è che qualche volta, come dire, cerchiamo di spiegare anche l'altra faccia della medaglia: non è che portafogli anche modesti, come possono essere quelli dei nostri ascoltatori, possono essere polverizzati in mille strumenti di investimento che poi costano. Naturalmente anche il peso degli oneri e delle commissioni si fa sentire, per cui chiaramente anche la diversificazione deve essere fatta al meglio. Eccoci di nuovo in diretta, l'ultima parte di Salvadanaio dedicata ad un'analisi dei mercati finanziari dopo le elezioni del nostro paese, risultato politico, quadro di incertezza appunto che è emerso, e speriamo che questa incertezza si trasformi invece, come dicevamo poco fa, in assunzione di responsabilità da parte delle nuove forze politiche che adesso sono chiamate appunto a formare il nuovo governo. Lo hanno già chiamato il governo di scopo, insomma un governo che abbia un obiettivo, magari riportare il nostro paese sul sentiero della crescita. Questa mattina dicevamo due aste di titoli di Stato italiani. Il Tesoro appunto ha collocato con successo 4 miliardi di euro di BTP decennali. Il tasso che il mercato ha chiesto è stato del 4,83%, BTP a 5 anni, tasso chiesto al 3,5% dal 2,94 di gennaio. Fabrizio Fiorini, ci siamo riportati ai massimi di ottobre. Siamo ancora in una condizione di sicurezza con il BTP che è sotto il 5%, una volta scavallata questa soglia dovremo cominciare a ripreoccuparci, o tutto sommato possiamo ancora sostenere a lungo questo aumento di rendimenti? No, direi che intanto l'ostacolo principale era quello di continuare a trovare investitori che mettessero i soldi in Italia comprando BTP. E il risultato di oggi da questo punto di vista è estremamente incoraggiante. Ritengo anche che una buona presenza degli investitori stranieri potrebbe riemergere nelle prossime settimane, via via che ci sarà chiarezza, e questo sarà un altro elemento positivo. Per quanto riguarda il livello, non ritengo che siamo neanche vicini a un livello di problema. Uh-huh. Il 5% non è una soglia insuperabile, anche il 5,5% è assolutamente gestibile. Si tratta di capire ovviamente, qualora dovessimo arrivarci, per quale ragione ci siamo, perché se la ragione è grave rischiamo di arrivarci e di starci, e quindi il problema diventa per quanto tempo ci finanziamo al 5,5% e soprattutto per quanto tempo ci finanziamo a tassi alti anche sulle scadenze brevi, perché il BOT ieri è uscito all'1%. Uh-huh. E quindi se dall'altra parte l'Italia comunque a breve riesce a finanziarsi all'1%, il costo medio rimane abbastanza contenuto, perciò siamo in grado di reggere più a lungo. Se torniamo a una situazione simile a quella di 12 mesi fa, quando anche il BOT a un anno stava al 7, allora il problema per l'Italia inizia a diventare più grave. Quindi non penso ci sia un livello soglia oltre cui preoccuparsi. Quello che è importante è che non ci si rimanga per tanto tempo e soprattutto che ciò non sia valido per tutti i titoli della curva dei rendimenti, perché altrimenti il peso sul debito inizierebbe a farsi sentire. Ma giusto per dare due numeri, l'Italia è in grado di reggere emissioni al 5% per i prossimi due anni, nel caso mantenendo l'obiettivo di pareggio di bilancio con manovre che non sono superiori allo 0,2% del PIL. Quindi da questo punto di vista siamo facilmente in grado di gestire questa situazione. Ovviamente poi c'è il riflesso su anche quale sarà il tipo di crescita che noi avremo, perché purtroppo il rapporto debito-PIL dipende anche dal PIL, quindi a bocce ferme, questo è sostenibile. Qualora il PIL dovesse scendere, allora dovremmo riformulare il tutto, ma non è per il livello dei tassi, ma purtroppo per la crescita del PIL. Allora, visto che poi tra l'altro ci confrontiamo sempre con la Germania, non ci dimentichiamo adesso che l'altro prossimo grande appuntamento elettorale, proprio quello tedesco di autunno. Stefano Rossi, volevo ritornare un attimo con lei e magari chiedere anche a lei qualche indicazione ai nostri ascoltatori che per vocazione in Italia sono sempre estremamente prudenti, anche se qualche volta si scopre fanno delle operazioni un po' azzardate, ci tocca fare le puntate sul risparmio tradito, ma insomma questi risparmiatori in Italia negli ultimi tempi hanno messo molto denaro anche negli strumenti di liquidità, nei conti di deposito, insomma hanno fatto delle buone scelte, che cosa possiamo dire allora? Vuole che le dica cosa penso veramente, certo. Cioè, purtroppo quando un risparmiatore mette buona parte dei propri risparmi in obbligazioni bancarie proposte dalla propria banca, non sta facendo una scelta non rischiosa, cioè sta prendendo un rischio concentrato, vuol dire che si fida del fatto che la propria banca gli promette un rendimento alto, ovviamente non ha gli strumenti informativi per capire quanto costa il funding a quella banca in quel determinato momento, certamente la banca si finanzia con il proprio correntista in modo molto più cheap rispetto ad andare sul mercato più direttamente, sì. E quindi purtroppo da questo punto di vista il risparmiatore continua a cascarci, mi viene da dire. Allora è chiaro che la soluzione per tutti non esiste, dipende sempre molto da che dimensioni di portafoglio stiamo parlando, da che età ha il risparmiatore, che genere di rischio, ci sono tutta una serie di cose che e ovviamente è il mestiere che facciamo noi, cercare di capire veramente qual è la soglia del dolore vera del cliente e nello stesso momento proporre delle cose che sono adeguate. Tra l'altro richiede anche la MiFID, perché lei sa benissimo che ci vuole un'adeguatezza, un'appropriatezza nella proposta di strumenti. Detto questo preambolo che sembra banale, però in realtà non è banale per niente, perché io penso che nei prossimi mesi le banche italiane avranno di nuovo un certo periodo di maggiore difficoltà a fare il funding, anche perché se, come è successo penso oggi nell'asta, ci sono sì gli investitori esteri, però ce ne sono anche molti molti domestici che hanno partecipato all'asta, quindi se le loro forze devono essere impegnate a sostenere il debito pubblico italiano perché è più ballerino rispetto a prima, mi viene da dire hanno meno armi a disposizione per in qualche modo andare a finanziare l'impresa piuttosto che fare il loro mestiere di banca, cioè la banca alla fine ha un bilancio che è uno solo, deve decidere dove mettere le proprie forze. Ecco, io sarei un po' attento su questo punto, quindi io ritengo che chiunque vada al governo abbia il dovere di in qualche modo occuparsi di un problema serissimo che è ovviamente quello del debito pubblico italiano, perché avere un debito sulle spalle di ogni cittadino di 2 trilioni non è una cosa che la gente si può dimenticare, chiunque stia lì al potere. Grazie a tutti, intanto Salvadanaio è arrivata al termine, non me ne ero neanche accorta, devo salutarvi come sentite dalla sigla che Gianmarco mi sta già mandando in onda, per cui io vi ringrazio, torneremo sicuramente a sentirvi nelle prossime settimane perché insomma sarà sicuramente interessante monitorare l'andamento del mercato in relazione anche all'evoluzione del dibattito politico in Italia. Grazie a Lorenzo Alfieri di JP Morgan, Matteo Bosco di Aberdeen, Stefano Rossi, Edmond de Rothschild, Fabrizio Fiorini di Aletti Gestiel, torniamo domani con la Tobin Tax, buona giornata. Buona giornata a tutti.